Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Nel caso in cui ci fossero i soldi e nel caso in cui si dovesse costruire il ponte, sarà costruito quantomeno come trasporto di inerti, come fornitura di calcestruzzo, come movimento terra, metà dell'Andrangheta e metà da Cosa Nostra. Quella che sembra rassegnazione, in realtà per Nicola Gratteri è solo realismo. Se mai ci dovesse essere il ponte, la torta dunque sarebbe spartita equamente come i piloni sulle due sponde. Calabrese da anni, questo magistrato è tra i più impegnati a cercare di tagliare le radici alla mala pianta dell'Andrangheta che, come la gramigna, attecchisce ovunque. Ha indagato anche sulla strage di Duisburg e sulle strade internazionali della droga e per questo quella che sembra rassegnazione è in realtà solo profonda conoscenza di una malavita organizzata diventata la più ricca e potente in Europa, con un fatturato di 44 miliardi di euro nella regione, la Calabria, più povera dell'Unione. E la malapianta, titolo dell'ultimo saggio, Conversazione con Antonio Nicaso, viene analizzata anello dopo anello per cominciare a capire, ad esempio, come abbiano fatto le cosche calabresi a diventare i monopolisti del traffico di cocaina. L'Andrangheta controlla la totalità del territorio della provincia di Reggio Calabria. Parte a macchie di leopardo la Calabria, ci sono locali di 'Ndrangheta nel centro e nel nord Italia, in Europa, nell'America del Nord, nel sud, in Australia, in Sud America, in Sud Africa. Il locale di 'Ndrangheta è la struttura base, è l'estensione del territorio sul quale l'organizzazione esercita il suo potere. Ha un controllo asfissiante perché controlla non solo il traffico internazionale di cocaina, ma è presente e gestisce gli appalti, non solo come trasporto di inerti o con la percentuale della mazzetta del 4%, ma controlla gli appalti nel senso che stabilisce chi deve vincere l'appalto, chi si deve aggiudicare l'appalto, addirittura in alcuni casi se l'opera deve essere costruita o meno. L'Andrangheta si interessa di estorsioni. L'estorsione serve non solo e non tanto per far mangiare i picciotti, ma anche per delimitare il confine del locale di 'Ndrangheta. Certe volte si dice, ma perché se la 'Ndrangheta è così ricca, chiede la mazzetta anche di 500 euro oppure va alla moglie del capo mafia nel negozio e non paga la spesa? Perché il compito di un capo locale non è solo e tanto è quello di arricchirsi o di far mangiare i picciotti, ma anche di esternare il potere e anche di delimitare il confine. L'altra attività è l'usura, che è un reato, diciamo, che l'Andrangheta commette da non più di 20 anni, perché prima era considerato disonorevole l'usura, ma l'usura viene fatta per rilevare l'attività commerciale per farne poi riciclaggio. Un reato che immagino negli ultimi tempi, in un momento di crisi soprattutto, rischia di aumentare facendo pressione sulle maggiori difficoltà anche dei commercianti e degli imprenditori. Certo, la mancanza di liquidità, il fatto che le banche non prestino più denaro o comunque non lo prestino facilmente come prima, il fatto che le stesse banche a Brescia adottino il 4% di interesse e a Reggio Calabria l'8% di interesse, dicendo che il rischio di insolvenza al sud è maggiore. Sì, questo è vero, ma mi pare che sia una bella speculazione chiedere il doppio degli interessi, e quindi l'imprenditore meridionale è sempre comunque svantaggiato. Ma il problema di liquidità non è solo un problema della Calabria, ma è un problema anche dell'Italia centrale, settentrionale, dove imprenditori che non si creano un problema etico o comunque che rischiano di fallire, il salto e dire faccio entrare in società un prestanome dell'Andrangheta o della Camorra, faccio entrare soldi liquidi, è molto facile perché è un momento di crisi. Certo, ecco procuratore, lei ha indicato un po' tutti le principali fonti di guadagno dell'Andrangheta, che si dice abbia il monopolio soprattutto per il traffico di droga. Lei indica come il traffico di droga abbia preso il posto dei sequestri come introito principale. Ci dia qualche cifra. Le vostre indagini vi permettono di ricostruire ad esempio quanto costi all'Andrangheta un chilo di cocaina e che percorso poi faccia la droga per arrivare sulle varie piazze italiane? Sì, noi in questo settore abbiamo fatto molte indagini importanti e approfondite anche in Sud America e nel resto d'Europa. Noi abbiamo fatto indagini coordinandoci con 10-11 paesi del mondo e abbiamo visto che ci sono uomini dell'Andrangheta che si muovono in Colombia in particolare nella zona rossa di Bogotà, dove c'è una sorta di borsa della cocaina, cioè ci sono dei broker dell'Andrangheta che comprano la cocaina, a seconda della quantità ovviamente, della qualità cambia il prezzo. Noi abbiamo sentito acquisti di un chilo di coca pure al 98% costare 1.500 euro, un chilo di cocaina tagliata fino al 23-24%, che ha effetto stupefacente, da un chilo si fanno 4,5 kg, quindi, e poi un grammo in Italia costa 50 euro, 40 euro, però dobbiamo anche tener conto che a queste cifre bisogna aggiungere 2-3 punti di ricarico per il trasporto, e poi considerare che noi mediamente in Europa riusciamo a sequestrare non più del 10% della cocaina che arriva, quindi non esiste nessuna attività tra lecita e illecita più redditizia il traffico di cocaina. Sicuramente, lei ha parlato della Colombia, ma Sud America vuol dire, o meglio Centro America vuol dire anche Messico, dove lei stesso è stato. Ma quello che viene da chiedersi, come ha fatto l'Andrangheta a conquistarsi la fiducia dei narcotrafficanti, se diciamo ne hanno apprezzato, non so, la segretezza, i vincoli di sangue progressivamente, e quindi anche l'assenza di pentiti all'inizio? Come è riuscita a conquistarsi questa fiducia in forza della sua grande liquidità? Ma intanto l'Andrangheta è una struttura granitica dove si entra soprattutto per parentele, per vincoli di sangue, quindi il collaboratore di giustizia per noi è una chimera, cioè noi anche nella stagione in cui ci sono stati i collaboratori di giustizia, cioè nella prima taglia anno 90, quando era conveniente fare il collaboratore di giustizia, noi non abbiamo avuto più di 50-60 collaboratori di giustizia, ma tutti criminali di serie B, di serie C, quasi mai i capi locale. Solo Franco Pino di Cosenza, Filippo Barreca di una frazione di Reggio Calabria, di Pellero, cioè i patriarchi dell'Andrangheta, grandi strateghi, non abbiamo avuto come rato di giustizia. Quindi questo è segno per le organizzazioni criminali mondiali di grande, tra virgolette, di grande serietà, di grande graniticità. E poi l'Andrangheta ha avuto tanti soldi, perché nella stagione dei sequestri di persona, a parte i sequestri fatti in Veneto dai giostrai, i sequestri fatti in Sardegna, l'Alto Lazio e Toscana fatti dai sardi, e qualche sequestro fatto dalla Sardegna Unita in Puglia, tutti gli altri sequestri, soprattutto quelli fatti in Lombardia, in Liguria, in Piemonte, in Emilia Romagna, sono stati tutti fatti gestiti dall'Andrangheta. Questi sequestri hanno portato grande liquidità, appunto, che mi ricordo in quel periodo i soldi venivano nascosti sottoterra, venivano tenuti nei bidoni dell'olio, e questi grandi liquidità poi sono stati portati all'estero, questi soldi sono stati riciclati anche con un abbattimento anche del 20% del valore nominale, ma comunque sono serviti ad acquistare cocaina. Quindi abbiamo avuto un'Andrangheta molto solida, molto granitica, molto riservata, con tanti soldi contanti, e quindi è stato facile per organizzazioni criminali colombiane, in particolare venezuelane, vendere la cocaina all'Andrangheta. E l'Andrangheta si è dimostrata talmente credibile sul panorama internazionale, dove ad esempio in un'indagine che abbiamo fatto circa un anno fa, dove si sono incontrati con i messicani sotto il ponte di Brooklyn, e lì hanno fatto grandi affari, perché anche i messicani, in particolare quelli del cartello del Golfo, collegati con l'organizzazione terroristica Le Zetas, sono riusciti a fare grandi affari e incominciare a importare cocaina in Europa. Quindi la droga, prima ancora i sequestri, lei ha parlato anche prima degli appalti, ma quello che un po' viene da chiedersi a proposito dei grandi appalti e delle grandi opere che sono in progettazione da anni in Calabria, come per esempio la statale Ionica o la famosa Salerno-Reggio Calabria, è che spesso riguardano imprese, gruppi, grandi, multinazionali che operano anche altrove, ma che poi, guardando le notizie delle inchieste, sembra che si adattino alle regole del posto quando vengono in Calabria. È così? Sì, perché il controllo del territorio è qualcosa di asfissiante. C'è un locale di 'Ndrangheta, controlla il respiro, il battito cardiaco, su tutto ciò che accade sul suo territorio. Quindi se passa una strada, se passa un'autostrada, è ovvio che il locale di 'Ndrangheta, il territorio sul quale passa la strada o l'autostrada, dovrà quantomeno avere la mazzetta, quantomeno fornire gli inerti, il calcestruzzo, oppure fornire gli operai, la forza lavoro. non può esistere che un'opera pubblica di quelle dimensioni venga fatta e l'andrangheta locale sta a guardare. Ne andrebbe di mezzo il prestigio, la credibilità, l'esistenza stessa dell'opera di andrangheta. Il capo locale e i suoi uomini si faranno ammazzare, si faranno anni di carcere, pur di non, nella loro logica criminale, di non avere questa umiliazione, di non riuscire a beccare niente da questa opera pubblica. Quindi è un'utopia pensare, con questo sistema giudiziario, poter fermare questa forza criminale. Si pensa che appunto si tratti di aziende che potrebbero avere, diciamo, le spalle sufficientemente larghe per avere... Ma la notte ci sono, questi non è che portano da Milano, da Torino, da Bologna gli escavatori, ruspe, camion, eccetera, perché la notte è buia, non è che possono tenere per 365 giorni l'anno, pagarsi una vigilanza H24 per questi camion, per questi mezzi. Certo, certo. Se gli va bene, bruciano i mezzi. Lei parlava di opere, impossibile prescindere da quella che viene considerata un po' l'opera per eccellenza in discussione in Calabria, tra Calabria e Sicilia, il ponte. L'eventuale ponte che effetto avrà secondo lei sugli equilibri? Guardi, io sento parlare del ponte, io ero bambino e già ricordo mia madre mi diceva che quando lei era bambina si parlava del ponte. Nel caso in cui ci fossero i soldi, nel caso in cui si dovesse costruire il ponte, sarà costruito quantomeno come trasporto di inerti, come fornitura di calcestruzzo, come movimento terra, sarà costruito metà dell'andrangheta e metà da Cosa Nostra. Questo sembra che lei lo dia come un triste dato ormai assegnato, stabilito. Guardi, conosco bene l'andrangheta, conosco bene la forza limitata delle regole con le quali noi combattiamo le mafie. Ci sono già stati dei contatti? Un interessamento, secondo lei, delle cosche su entrambe le sponde? C'è stato già? C'è un... Ma ci sono stati degli spunti, dei commenti in passato sulle indagini. Comunque, per quello che sono le nostre conoscenze, le mie conoscenze, non si può prescindere da questo. Mettiamo per ipotesi un'utopia, la costruzione del ponte sullo stretto. Se non c'è un sistema di regole certe, forti, cioè se io dimostro che Tizio è capomafia di un paese, essere capomafia vuol dire controllare tutto, controllare anche un pacchetto di voti che spostandolo a destra o a sinistra si determinerà chi farà il sindaco, il tecnico comunale, il comandante dei vigili urbani, eccetera. Se io non ho la forza, dopo aver dimostrato che Gratteri è il capomafia del paese X, se io poi il sistema penale, processuale e l'ordinamento penitenziario non mi consentono di tenere in carcere 25-30 anni il capomafia X, non cambierà nulla, non succederà niente, cioè se io non ho questa forza, se io Stato. Se ancora si pensa che anche il capomafia, cioè anche chi controlla il respiro di un paese, possa ravvedersi, quindi una volta uscito dal carcere, dopo che si è fatto 4-5 anni di carcere, perché queste... E sono gli anni che sconta un capomafia, un condannato per 416 bis al netto, chi si illuda che dopo 4-5 anni questo capomafia uscendo dal carcere si è cambiato, e veramente crediamo anche alla Befana. Nella seconda parte dell'intervista con il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri si parlerà anche della bomba alla Procura Generale, delle conseguenze della decennale disattenzione e sottovalutazione dell'andrangheta da parte dei governi, ma anche di due innovazioni recenti dell'esecutivo giudicate estremamente positive. Storielle. Storiacce. Un capo zona controlla il respiro, il battito cardiaco e ogni passo del suo territorio. Per questo nulla può essere fatto senza il suo assenso. Nella prima parte della rubrica Nicola Gratteri, procuratore aggiunto calabrese, da anni lotta contro l'andrangheta, è partito da questo assunto per spiegare perché con le attuali leggi sia impossibile pensare che ci siano opere o appalti in Calabria senza lo zampino di quelle cosche che praticamente non hanno quasi mai conosciuto tradimenti e che per questo hanno formato la mala pianta, titolo dell'ultimo saggio a firma del magistrato. A gennaio una bomba della Procura Generale di Reggio Calabria ha riacceso i riflettori sui mali di questa martoriata terra. Si è detto che l'Ndrangheta volesse alzare il tiro, che si stesse sicilianizzando, che lanciava una trattativa allo Stato, ma la lettura di Gratteri è diversa. No, non penso a questo. Sul punto non posso parlare perché c'è un'indagine in corso, ci sono i magistrati della procura di Catanzaro competenti. La cosa che posso dire, gli episodi che sono verificati mesi fa, anche lo stesso discorso della macchina con armi ed esplosivo il giorno in cui c'è il Presidente della Repubblica, o magari altre cose tipo buste con cartucce, con bossoli, bisogna analizzarli bene, decriptare questi messaggi e non sbagliare nella risposta. Parlare di strategie globali, nel senso di pensare ai versi dell''Ndrangheta che vogliono alzare il tiro, non mi pare. La comunicazione dell''Ndrangheta e degli uomini di 'Ndrangheta, non si è mai parlato di comunicazioni, di pizzini o di diciamo così indicazioni che possono essere in un certo senso affiancabili a quelle che ormai ci si è quasi imparati a conoscere per quanto riguarda Cosa Nostra? È una comunicazione di tipo differente, avviene secondo le stesse regole? I grandi latitanti hanno sempre comunicato sia con i cosiddetti pizzini, sia a voce, sia incontrando direttamente le persone, spostandosi naturalmente dal luogo dove trascorre la latitanza. E allora è stata soltanto una, diciamo, una mancanza di attenzione il fatto che quasi non si conoscano? Sì, no, una grande mancanza di attenzione da parte soprattutto del governo centrale, che ha sempre considerato una mafia di serie B, di serie C, una mafia stracciona, e che ha sempre lesinato uomini e mezzi nei decenni passati. A tal proposito, infatti, è solo di recente l'inserimento della parola stessa 'Ndrangheta all'interno delle leggi, al contrario, diciamo, delle altre mafie nostrane che erano contemplate dalle nostre leggi. Quindi, secondo lei, c'è anche questa sottovalutazione dietro lo sviluppo dell''Ndrangheta stessa e la crescita stessa di questa malavita organizzata? Se vogliamo, questo è anche il segno di la conferma di non aver capito per decenni, però ripeto, comunque queste sono piccole cose. Pensare di arginare l''Ndrangheta solo inserendo il nome 'Ndrangheta nel codice, o pensando di risolvere il problema con 100 uomini in più, 100 uomini in meno, siamo molto lontani. È evidente. L'ultima cosa che le chiedo è una, appunto, questo primo attenzione che c'è stata nei confronti dei problemi degli organi giudiziari calabresi dopo l'attentato alla Procura Generale, con il clamore, il governo centrale, l'annuncio della creazione dell'Agenzia dei Beni Confiscati a Reggio. Ecco, lei come valuta queste indicazioni, questi primi annunci? Cos'è che secondo lei potrebbe, sia pur nella consapevolezza di quanto, diciamo, sia lungo e faticoso il percorso per cercare quantomeno di iniziare un po' a scardinare, soltanto a intaccarlo, il potere di una così potente organizzazione malavitosa, ma cos'è che potrebbe iniziare a dare un segnale forte? Un'operazione tipo quella che fu in Sicilia, quella dei Vespri? No, guardi, allora, per evitare di girarci attorno, questo governo ha fatto due cose buone. Nel primo decreto di sicurezza ha abolito il patteggiamento in appello, che era uno scandalo, cioè consentiva che il pubblico ministero d'udienza e l'avvocato si mettessero d'accordo a condanne in primo grado a 24-25 anni, si andava in appello e ci si accordava ad una pena di 6-7 anni, e poi in cambio la Corte d'Appello non doveva motivare la sentenza. Un'altra cosa seria e importante che ha fatto questo governo è stata la modifiche normative che consentono una maggiore possibilità di sequestrare e confiscare i beni. Queste sono due cose importantissime che hanno dato una forte accelerazione al contrasto alle mafie. Il resto sono palliativi. L'agenzia è una cosa importante per la gestione di questi beni, è una cosa importante. Il fatto che sia stata fatta a Reggio Calabria o che veniva fatta a Bolzano cambia poco da questo punto di vista, dal punto di vista della, della rete, è un gesto, diciamo, di attenzione da parte del governo centrale nei confronti della Calabria, della Reggio Calabria, però ripeto, il resto sono tutti palliativi, necessita convincersi che il mafioso non si ravvede, che bisogna mettere mano al codice penale, al codice procedura penale, all'ordinamento penitenziario, in modo tale da far sì che non sia conveniente delinquere, che non sia conveniente essere ndranghetisti. Cioè, quando con condanna a 5-6 anni al netto, con pene, con anni di carcere che sono 5-6 nei confronti dei mafiosi, non andremo da nessuna parte, continueremo a parlarci addosso. Vi ricordo che potete riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, nell'archivio di radio24.it. Ciao, a sabato!